con Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Parliamo del film Lontano da qui di Sara Colangelo, in uscita in sala giovedì 13 dicembre. Simone, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao, ciao, grazie. Ce lo presenti? Sì, certo. Allora, il film si chiama appunto Lontano da qui e racconta la storia di Lisa Spinelli, che è interpretata magistralmente da Maggie Gyllenhaal, un'attrice straordinaria, che interpreta questa maestra d'asilo che vive a Staten Island, è appassionata di poesia ma di per sé non è molto dotata e le poesie che scrive sono piuttosto convenzionali, diciamo. Un giorno però Lisa scopre casualmente in Jimmy, un giovane bambino di 5 anni del suo asilo, un talento innato. Il bambino infatti è in grado di comporre con estrema disinvoltura delle poesie incredibili per un bambino della sua età. Lisa rimane colpita da questo talento straordinario e che sembra non interessare però ai genitori del bambino, che sono troppo distratti dal lavoro e poco interessati alle arti, e decide quindi di istruire il bambino e coltivare il suo talento con il sogno di farlo conoscere al mondo intero. Un sogno che però spingerà Lisa oltre i limiti della sua professione e che la costringerà poi a prendere una decisione, diciamo, inaspettata, ecco. Ci racconti un po' dell'autrice, di Sara Colangelo? Sì, certo. Sara Colangelo è una giovane regista italo-americana, infatti ha origini abruzzesi, e però vive da diversi anni a New York. Sara Colangelo ha diretto qualche anno fa il suo film d'esordio, che si chiamava Little Accident, e quest'anno ha presentato Lontano da qui, il cui titolo originale è The Kindergarten Teacher, al Sundance Film Festival, dove ha vinto il premio per la miglior regia, e è un premio che solitamente, diciamo, la maggior parte dei casi va sempre a registi maschili, invece questa volta questa bravissima regista e anche giovanissima regista è riuscita a conquistare, perché il film effettivamente è diretto in maniera impeccabile, ecco. E Sara Colangelo fin dall'inizio ha pensato a Maggie Gyllenhaal come protagonista del suo film e infatti l'ha coinvolta anche nella produzione, visto che poi il film è interamente costruito sul personaggio di Maggie Gyllenhaal, di Lisa, questa maestra, e l'ha coinvolta fin dall'inizio nella produzione, hanno collaborato insieme addirittura anche nella stesura dei dialoghi e della sceneggiatura. A livello internazionale in quali sale è stato? E il film è stato distribuito negli Stati Uniti su Netflix, okay. E mentre diciamo che nel resto del mondo, in Italia, in Inghilterra e in altri paesi europei invece uscirà al cinema, ed è una scelta di cui andiamo assolutamente fieri, perché pensiamo che sia un film che merita assolutamente di essere visto sul grande schermo e quindi siamo assolutamente fieri di averlo portato in Italia e di dare la possibilità agli spettatori di vederlo al cinema. Cosa ti ha convinto principalmente del film? No, guarda, il film è stato presentato con incredibile successo appunto al festival, dove ti dicevo la regista ha vinto il premio alla miglior regia. Ci ha colpito non solo perché è un film che parla dell'importanza dell'arte, della bellezza, del talento, ma ci ha colpito soprattutto perché è la storia di una donna che non trova più queste cose nella sua vita quotidiana e che con il più nobile e puro degli intenti è disposta a sacrificare tutto per il bene di questo straordinario bambino. E anche perché appunto è un film diretto da una donna e quindi noi siamo sempre attenti al cinema femminile e con temi di grande importanza come questo, con storie dedicate a storie di donne molto forti, e quindi diciamo ci ha colpito fin da subito per questi motivi, ecco. Voi lo avete incontrato in quel festival dove ha avuto questo riconoscimento? Sì, esatto. Esattamente, sì. Sì. E diciamo, fin da subito, come ti dicevo, ci ha convinti e siamo ben felici che il film finalmente trovi il suo spazio al cinema. Ecco. In quante sale? Allora, uscirà appunto giovedì 13 dicembre in circa 66 sale in tutta Italia, partendo dalle città più grandi, ma anche pian piano addentrandoci nelle varie province. Speriamo che come al solito il pubblico lo accolga e speriamo che man mano riesca ad arrivare sempre più città in modo tale che venga sempre visto da sempre più persone, ecco. E allora ricordiamo il film Lontano da qui di Sara Colangelo, in uscita in sala giovedì 13 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie a tutti voi, ciao. Ciao. Ciao.